importante che adesso recuperare l'energia, abbiamo speso tantissimo e domenica abbiamo un avversario tosto, difficile, che sta molto bene mentalmente e fisicamente come il Verona, quindi dobbiamo essere preparati perché abbiamo fatto tanto e sofferto tanto per arrivare a far sì che questo sia il nostro momento positivo, adesso dobbiamo fare di tutto perché possa continuare il più lungo possibile. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Hi Inter fans, it's Christian Eriksen here. I'm so happy to be here and I hope bring a lot of joy and a lot of good football. So I'll see you in the stadium. Forza Inter. Viviamo, viviamo negli eti codici che la bellezza rifiora e là fuggevo, fuggevo ora si deriva voluta. Viviamo nei dolci poiché quell'occhio al cuore ogni possente va. Viviamo. Posto che qui succedono cose incredibili, mentre saluto Claudia Schiattone e Gianmarco Ferronato perché stiamo per iniziare la diretta, guardo dal vetro e c'è Giancarlo Antonioni che passava di qua, l'avete visto? No, qui per la partita della Fiorentina è venuto perché il capo della comunicazione della Fiorentina, un vecchio amico, l'ha portato, vieni che ti faccio vedere la diretta. Vabbè, no, ma comunque il tema è questo. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, ciao. Ciao, il tema è questo, titolo, i tifosi e i loro filmini mentali. Svolgimento, geniale idea della direzione creativa dell'Inter, il danese Eriksen alla Scala come certo. Il nuovo Otello. Almeno questo era il film di Matteo Caccia che ho qui davanti a me. Io sapevo che dovevo dire di no all'invito perché devo concentrarmi sul programma. Tra l'altro la puntata di Linea d'Ombra di oggi è tutta sulla lussuria, quindi c'ha un suo, no? Se penso sì. All'arrivo di Eriksen. No, Pardo, che dici? C'è una qualcosa di lussurioso nel presentare un giocatore alla Scala? Credo che il mercato ai tifosi regali lussuria, soprattutto in qualche caso, e quindi direi che tra i vizi capitali è quello più adatto alla situazione attuale dei tifosi dell'Inter. Beh, bellissimo, devo dire, molto creativo. Ho visto anche il video stamattina postato dall'Inter con il sogno e con Eriksen che diventa il direttore d'orchestra alla Scala. E bellissimo, insomma, grande colpo, grande storytelling di questo colpo. Adesso la parola aspetta al campo. È chiaro che stiamo parlando di un giocatore potenzialmente enorme, perché anche qui vale il discorso di Lukaku, un giocatore lo conosciamo, un giocatore di grandi qualità, sempre avute. Bisogna capire quanto gli ci vorrà per ambientarsi, per trovare una sua collocazione. Ecco, l'unica cosa che mi sento di dire rispetto a Vidal, che sappiamo poi l'Inter ha cercato, non è colpa sua, è la situazione del Barcellona che era oggettivamente più complicata, quello era un acquisto, diciamo, più facilmente inquadrabile da subito. Sì. Questo però potenzialmente è un crack, quindi per me è un grande colpo, tra l'altro comprata una cifra che mi sembra assolutamente equa, certo. No, direi, mi sembra un affare, ecco, cioè, sì, così, considerate che è in scadenza di contratto tra pochi mesi, però lo vuoi certo. Adesso qualcosa lo devi pur pagare al Tottenham e quindi il prezzo è certamente congruo. Però comunque sia, quando tu compri un giocatore, anche se poi non lo compri a zero, ma compri un giocatore sfruttando il fatto che andrà in scadenza di contratto, già quello ti dà la possibilità di comprare a un prezzo sicuramente più basso del suo valore. Ecco, io credo che il valore di Eriksen sia superiore, ma molto superiore, molto. Non mi ricordo di chi, e quindi chiedo scusa, che lo considera il giocatore come valore di teorico di cartellino più caro del campionato. Ecco, per averlo pagato 20 milioni mi sembra una buona. Mi sembra un affare. D'altra parte, Matteo Caccio ovviamente l'ha già messo sul salvaschermo del telefonino. Perché quella foto lì, quella foto alla Scala, è una foto bellissima a prescindere. Quello? Sì, assolutamente sì. E comunque, se vogliamo parlare di filmini mentali, visto che di quello parlavamo in apertura, io me lo faccio. fatto il mio super filmino mentale. Quando ho visto quella foto ieri, tra l'altro è successo poco prima della mia diretta, no? Quindi sì, ero un po' in ambascia, sì, perché ci siamo incrociati sulla porta. Siamo incrociati perché ero concentratissimo sulla diretta e avevo questi messaggi che continuavano ad arrivare. Io mi sono fatto il mio filmino mentale, avendo un trascorso teatrale, diciamo così. Quando io ho visto lui in un teatro, io ho pensato: guarda che cosa hanno fatto. Lui è danese. Amleto è il principe di Danimarca. Certo. E quindi ho mandato subito un messaggio all'amico Alessandro Villa di Intermediao dicendogli: dimmi che avete fatto questa cosa per cui lui adesso è l'Amleto che arriva e ci risolve. C'è un passaggio di Amleto straordinario in cui lui si trova davanti a degli attori. Quando arrivano gli attori a corte, gli attori fanno un grande spettacolo per il re di Danimarca, che è suo padre, che ha ucciso il padre vero di Amleto, che si chiama Amleto. Sì. Vabbè, sì. Andiamo al punto. A un certo punto lo stesso Amleto dice questa frase: il mondo è fuori di senno, destino infame che sia arrivato io a rimetterlo in sesto. E mi sembra una battuta perfetta per l'Inter in questo momento e per l'arrivo di Eriksen in questa squadra. Però era un film mentale. Cioè, chiariamo totalmente mentale. Però che l'Inter sia un'entità fuori di senno, questo lo dico da tifoso, lo sappiamo, è sempre stata così. Per aumentare la lussuria di Matteo, gli dico che è nato Eriksen il 14 febbraio, quindi il giorno di San Valentino, quindi sembra perfetto anche per questo tipo di amore romantico. Invece più prosaicamente, sappiamo che quindi avrà 28 anni tra pochi giorni, 95 presenze in nazionale, molti anni in doppia cifra col Tottenham, già ai tempi dell'Ajax era uno che si era mostrato come uno dei centrocampisti più creativi e più interessanti che c'era in giro per l'Europa. Ripeto, secondo me è un gran colpo. Sì, però io sono d'accordo con te su quando dici che il pronto subito, pronto cotto mangiato, era Vidal. È chiaro il modello, che il modello è Snyder. Bravo, esatto. Che scende e c'è un derby in arrivo, insomma. È vero. Sì, un sacco di circostanze concomitanze. No, ma sai come siamo noi tipo di interisti, guardiamo al di là del campo. No, Snyder che è sceso dall'aereo e andò direttamente allo stadio a giocare al derby. Lui sì, era pronto subito. Tra l'altro più o meno stesso ruolo, un giocatore eclettico, universale, offensivo, trequartista, piedi buoni, quasi la stessa struttura fisica, tante circostanze, però io non credo che la proprietà, cioè la trasposizione valga in quest'Inter di Conte rispetto a quella di Mourinho, che mi sembrava quasi più semplice o forse più costruita già per accogliere un giocatore nuovo immediatamente. Non lo so, io credo che sia solo un tema di capire proprio di spaziature in campo, cioè di posizioni in campo, di non pestarsi i piedi con gli altri. Ma insomma, secondo me è una sfida affascinante e bellissima. Ripeto, Vidal, che però non è che l'Inter non l'ha voluto prendere, non ci sono state le condizioni, poi il mercato non è finito, non si sa mai, qua con Marotta bisogna aspettare fino all'ultimo minuto. È chiaro che era un giocatore di cui sapevi perfettamente ruolo e interpretazione nel modulo di Conte. Qui lo sai comunque, perché è chiaro che lui sarà un titolare con Brozovic, secondo me con uno tra Sensi e Barella come altro centrocampista, come altro intermedio, e è chiaro che si aprono dal punto di vista anche tattico degli scenari più interessanti sicuramente, quindi più alternative, però ovviamente qua c'è più dibattito, ecco, Vidal lo mettevi là, ma insomma, però il colpo, ripeto, secondo me è clamoroso, è potenzialmente clamoroso e può contribuire a cambiare i destini degli azzurri, non soltanto in questi mesi, ma credo certo, dei prossimi anni. Ma questo è sicuro. Ma come valuti invece le, non so se sono intemperanze o furie quelle di Conte in questo periodo? Parli di quello che dice o che non dice. Esatto, che dice, che non dice. Allora, che come sai, metabolizza male le sconfitte, ma pure i pareggi, peraltro. Come sai, quando mi chiedi di parlare di queste cose, io non faccio mai un'analisi tecnica, ti dico, diciamo, i sentori dello spogliatoio del tifoso medio. Io ho due chat di WhatsApp sull'Inter, uno di un gruppo morigerato e l'altro meno morigerato. Quando si parla di Conte si dividono sempre a metà. Credo sia un pochettino quello che accade ancora adesso. Li ha quasi convinti tutti, ma c'è ancora uno zoccolo durissimo di tifosi interisti che veramente aspetta che Conte faccia tanto così per dargli contro. E la serie di pareggi, diciamo, sta andando in quella direzione, che è, diciamo, inversamente, anzi direttamente proporzionale alla parte di tifo bianconero che ce l'ha con Sarri, che aspetta veramente un inciampo. Quella frase che ha detto Sarri dopo la partita di Napoli ha creato visto ieri. Davvero un abisso. Per Conte è ancora così, inevitabilmente. No, ma che nel poi senso l'avesse che detto. Io ho un amico che mi dice: se mi porta lo scudetto a casa a maggio e mi chiede scusa per quello che ha fatto, forse lo perdono. Beh, forse però. Forse, quindi figuriamoci, se può fare un paragone tra le due squadre, gli acquisti delle due squadre di Milano. Hanno preso due grandissimi giocatori entrambe, no? Ibrahimovic ed Eriksen. L'unica differenza è che uno sembra un acquisto di 10 anni fa e l'altro invece è un acquisto, insomma, vintage, si paragona, è un po' più vintage. Si paragona a Snyder, come se avessimo ripreso Snyder, tutto sommato. Sì. Ma sì, Snyder sì. Lui però, che adesso ha tipo 20 kg, ho visto una foto a 20-30 kg in beh, più. Sì, non è esattamente la stessa cosa. No, ma poi si diceva, ieri abbiamo a lungo discusso di quella frase di Sarri, che io non ho trovato per nulla sgradevole, quella, mi riferisco a quella del vabbè, se devo perdere preferisco, cioè con questi mi fa un po' meno male, eh. Tutti dicevano, ma l'avesse detta Conte, sì, però c'è una differenza sostanziale, a parte il fatto che l'avesse parla... detta Conte l'avrebbero, se lo sarebbero magnato, sì, però, certo. però no, ma è indubbio, Pierluigi, ma il fatto che Sarri non parlava del Napoli Club e basta, parlava di un gruppo di lavoro con cui, di gente che è praticamente la stessa con cui aveva condiviso un percorso, un sogno, un'avventura e tante altre cose, quindi magari stessa guarda, situazione qui, fra 10 anni, ma non gli sarebbe scappato. Sono contento che ci sia Matteo adesso, perché secondo me questo è un classico esempio di testo e contesto e codici, nel senso Sarri non ha detto niente di male, ha detto anzi una cosa secondo me anche bella, sì, anche secondo me se la sente, cioè che comunque quello è stato un pezzo della sua vita ed è una squadra alla quale rimane legato. E detta così, io non credo che nessun tifoso della Juve possa rimproverarti, perché se tu fai un'intervista fra 5 anni in cui lui ti racconta gli anni di Napoli, io penso che chiunque, anche Zebrone, famoso storico tifoso della Juve di un film di un po' di anni fa, ascolta un uomo che racconta un pezzo della sua vita, un pezzo dei suoi sentimenti, e non c'è assolutamente niente di male. È che però, insomma, in questo momento è alla guerra come alla guerra, siamo in un momento chiaro, in cui da una parte e dall'altra il campionato si combatte, si lotta, quelle frasi dette dopo la sconfitta, poi con tutto quel clamoroso ventilatore, no, che propaga tutto, le cose belle, le cose meno belle, soprattutto le polemiche che sono i social network, figurati se non no, del genere. No, ma è chiaro, però sai, però codici, parliamo un sacco di cultura sportiva, no? Però solo quando ci pare. Allora, se a un bambino dice: ma perché questi ce l'hanno con quel signore lì che l'anno scorso, 2 anni fa, andava a quella squadra, adesso ha detto: beh, quelli lì preferisco perdere con loro che li conosco piuttosto che gli sconosciuti, cosa gli dici? No doveva dire una bugia? Io trovo che sia sensatissimo, e come dice Pierluigi, da un punto di vista proprio narrativo, e poi vado, da un punto di vista narrativo, sicuramente questa frase di Sarri aggiunge grande profondità al personaggio Sarri, e sì, probabilmente sì, il tempo e la storia gli daranno ragione, cioè nel racconto di chi è stato Marcello Sarri sicuramente questo sarà un pezzo fondamentale, ma il tifoso non ha memoria emotiva, tu non puoi mescolare le tue emozioni con le mie, perché altrimenti tu sei subito hashtag Sarri out. Dato che io perdo la partita, ragazzi, aspetta un attimo, prima che di salutare Matteo Caccia che deve andare a lussurieggiare, io dato che sono bastardo fino in fondo lo faccio salutare da Germano Lanzoni, così giochiamo prima al derby. Ciao Germano. Ciao. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. No, qui Matteo... Lasciamo andare in preda alle sue crisi di nervi, con direttamente. Beh, giusto, anche chi era la stampa diceva, no? L'internet è tornata a essere il reparto di neuropsichiatria, ha titolato così 2 giorni sì. fa. No, ma appena detto che il professor Caccia ha appena detto che il Milan ha fatto con Ibrahimovic un acquisto vintage, mentre l'Inter l'hai ha fatto detto, un acquisto di prospettiva. L'hai detto tu. Ho detto che è come se noi oggi ricomprassimo Snyder, questo più o meno. È stessa cosa, no? Hai detto così, appena sì, detto questo che, meno, sì, che il Milan fa gli acquisti vintage mentre loro fanno gli acquisti fighi, questo ha detto. Beh, ma Milano è fashion, no? Il vintage ogni tanto torna di moda, ragazzi, bisogna stare sul pezzo. E comunque ci sono dei cappotti che io ho preso al mercato, bravo, di Via Tabacchi sulla bancarella a 5 euro che sono meravigliosi e li metto tuttora, e quando torno a casa: ma dove li hai comprati? Ma in un negozio di Milano, a Romentino, in provincia di Novara, al mio paese. Non sanno che quel cappotto lì arriva da una bancarella, pensano che l'abbia comprato in un negozio del centro. Sì, Grazie Matteo. Prego. Grazie a voi. Allora, Gianmaro Lanzoni ieri sera, che è la voce di San Siro Rossonera, ieri sera c'è stato questo ricordo meraviglioso di Kobe Bryant. Ne sentiamo un pezzettino? È grazie alle leggende che viviamo la storia, attraverso la loro gloria. Le passioni ci avvicinano e quando una leggenda è un grande uomo che declama, canta, grida al mondo i nostri colori, avrà i nostri cuori per sempre. L'AC Milan desidera oggi stringersi attorno alla famiglia Bryant con profonda commozione nel ricordo di Kobe, di sua figlia Gianna Maria, e desidera esprimere la propria vicinanza anche alle famiglie di Ara, John, Kerry, Alissa, Cristina, Peyton e Sara. La Cemina ricorda oggi un grandissimo campione, tifoso rossonero, uno sportivo esemplare, un professionista dall'etica integerrima, un marito, un padre, un uomo. La tua memoria rimarrà sempre viva nei nostri cuori, i tuoi insegnamenti ispireranno ancora altre generazioni, per sempre. Legends never die. Sempre Kobe. Beh, grande interpretazione, è stato un momento bello. Difficile, credo. Tragicamente un puzzle che io sinceramente avrei anche evitato di poter raccontare, no? Poi noi facciamo un lavoro, così quando siamo speaker, voci di testi che trasferiscono emozioni, rimango coinvolto, no? E da domenica credo che chiunque ha un figlio si è messo nei panni di un padre che accompagna il proprio figlio e invita e spesso porta anche altri, no? E quindi quella figura, la grandezza credo di questo momento è che, pur essendo uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi, era per noi un rossonero un uomo, semplicemente chiaro, come chiaro. Noi tifosi, no? Se vuoi, partecipi di una grande emozione, poi in più il basket che è lontanissimo da noi, un Hall of Fame che dall'altra parte del mondo parla del suo sangue rossonero è emotivamente, per chi vive il calcio con quel sogno collettivo, una grande partecipazione, quindi credo, certo, che sia stato per tutti stato un evento doveroso, molto bello. Poi c'è stato invece quel misunderstanding relativo al mancato minuto di silenzio che è stato poi chiarito oggi. Pierluigi, aiutami, correggimi se sbaglio, ma praticamente un misunderstanding: il Milan aveva chiesto una commemorazione, non un minuto di silenzio. La Lega ha detto non ci hanno chiesto nulla e quindi il minuto di silenzio non era previsto in scaletta, anche se poi è stato poi fonte di contestazione, no Pier? Bisogna essere, sì, andata così, perché, da quanto ho capito. Ci sono polemiche sempre su tutto e in qualche caso anche giuste, insomma, pensiamo alla cosa recente che è successa con Anastasi, però ecco, non ho motivo di pensare onestamente adesso, di tutto, che la Lega prego Giovanni. Credo che sia una polemica davvero davanti al fatto, talmente, esatto, grande, esatto. Credo che sia. Le polemiche vanno accese, attivate, alimentate quando sono costruttive, no? Se fosse una polemica utile a farci ritornare quei ragazzi, allora io la aprirei su, certo, tutti i giornali. Se no, credo che il Milan, il tifoso, che ha chiamato quella persona, poi al minuto 24esimo invece. E lì una standing ovation senza essere naturale, per un minuto, anche in una fase di partita che stava quasi andando a rete, ma era davvero la percezione che siamo riusciti come persone a rimanere collegati con la realtà, che non è l'azione che porta a una variazione di risultato, ma una connessione. Questa è la grandezza dello sport, no? Perché ci connette, poi ci connette a volte in modo sbagliato. Però siamo interconnessi, questa parola interconnessi sarebbe piaciuta, certo, molto a Matteo. Certamente, ma lavoriamo con le emozioni, dai, lavoriamo per le emozioni. Le nostre in primis e poi le loro, insomma, quando si condividono è una grande fortuna. sì, lo diciamo tutti i giorni anche io per Luigi, che poi telecronaca eccetera, insomma non ci emozionassimo, al di là del tifo non provassimo emozione faremmo un'altra cosa. Ma assolutamente no, ma ieri veramente a San Siro, da quello che ho visto, è andata in scena qualcosa di molto più, diciamo, di molto meno burocratico, no? Del minuto di silenzio, del minuto, certo, esatto. è una cosa doverosa. È andato in onda qualcosa che da un lato ha raccontato la sensibilità del Milan come società, tra l'altro il Milan ovviamente insomma ha l'orgoglio di avere, stamattina ho visto un'intervista di qualche anno fa, credo per Milan TV, di Kobe, che raccontava la sua passione rossonera e come fosse diventato tifoso del Milan guardando Gullit, Rijkaard e Van Basten, mm-hmm, quindi innamorandosi degli olandesi, e dall'altro anche la spontaneità del pubblico, il pubblico di fede rossonera, di fede granata, di tutti, insomma, perché questo sì, era molto un fatto che ha colpito tutti. La grandezza di Kobe era proprio la sua genuinità, essere genuino fuori dal campo, no? Essere davvero un alieno sul parquet, e poi un'umanità disarmante. Credo molti amministratori di condominio, non dei delegati, hanno una sensibilità meno diretta, quindi è sempre emozionante quando riconosci nella grandezza dell'uomo l'uomo e poi il suo talento. Poi invece sul campo abbiamo visto la Calhanoglu night. Calhanoglu, un giocatore estremamente divisivo per il milanismo, ne ho le prove anche in redazione, cioè, si dividono quasi in Susiani, ora Suso va via, Calhanoglisti, oppure chi non sopporta né uno né l'altro. È stato un po' un oggetto del contendere di un pezzo di stagione, Germano. È difficile fare il calciatore, è difficile perché le aspettative di chi ti ingaggia a quelle cifre sono sui secondi, neanche su più 90 minuti. Però insomma poi loro avranno modo, tutti i protagonisti, di risolversi e di risolvere poi le situazioni. Volevo soltanto fare condividere con voi una coincidenza che mi è piaciuto alla fine della partita, guardare il risultato. Non me le vogliono i tifosi del Torino, non è un'esaltazione del risultato, ma i numeri. 4-2 è un 24 speculare, che era il numero della maglia, diciamo, di Kobe. Casuale, sì, come tutte le cose, come anche il destino, però poteva finire 2-1, 3-2, 4-3, e invece tanto presente, permetti così, romanticamente anche. È finito con quei due numeri lì, certo. Certo. Hai visto Embiid dei Sixer, che ha giocato con la 24, sì, di Bobby Jones, ritirata, chiedendogli ovviamente il permesso, uh-huh, ha fatto 24 punti, fra l'altro l'ultimo canestro è diciamo un po' in quello stile, no? Poi ha fatto anche 8 rimbalzi, insomma dai, qui nelle tracce, nei numeri, nei segni, puoi trovarne mille, guarda, sì, che veramente puoi mille, appunto. Se hai un'occasione in più per sorridere pensando a quello che di meraviglioso ci ha lasciato questo atleta, ringraziando il destino che ci ha dato la possibilità di viverlo per così tanti anni, perché siamo stati fortunati a trovare un atleta così, e chiaramente a maledire la sorte, questo ci mancherebbe. Insomma, se hai un'occasione in più per rivolgergli un pensiero, insomma, c'è anche questo. Certo. Germano, ti saluto e ti ringrazio, però dopo averti chiesto se è più imbruttito Ibra o CR7 come etica del lavoro. Ma allora io ti lo dico davvero, Ibra è imbruttito di livello, no? Cioè la frase che è il suo engagement in Italia quando è arrivato a Torino e davanti a Del Piero ha detto: io sono Zlatan, voi chi cazzo siete? Questo è l'imbruttimento da fuoco nella vita. Il Giorgiana è il Ronaldo, che si mette ancora la pomatina negli anni di crisi, ma dove cazzo vuoi andare? A livello di fatturato non so dopo chi comanda. A livello di fatturato dobbiamo fare due conti. Mi sa che Cristiano, tra l'altro ho letto che è diventato il primo giocatore a superare, credo, il 200 milioni di follower su Instagram, l'ho letto stamattina, quindi controllate se ha toccato i 200 milioni. Non sono iscritto, ma magari provo. Sì. Ciao Germano, grazie. Ciao ragazzi, grazie. Ciao, un abbraccio. Convocato. Un onore giocare con i top player. Onore tutto nostro, grazie Germano Lanzoni. Quanto alla partita, Pierre, la cornice abbiamo descritto ed era la parte lasciami dire, anche più emotiva e più, più importante. Poi abbiamo visto una partita importante pure per il Milan, sesta vittoria, a proposito di effetto Ibra. Sì, allora, la cosa che mi sembra quasi divertente far notare è che Ibra ha questo potere taumaturgico di risvegliare tutti. Ci è riuscito con Rebic, ci è riuscito ieri con Çalhanoğlu, magari ci riuscirà pure con Piontek, che in questo momento mi sembra l'operazione più difficile. Il Torino ha cambiato passo e ha reagito rispetto al drammatico 0-7 in casa con l'Atalanta. E rimane anche un episodio arbitrale, secondo me, importante, che ha condizionato, comunque potrebbe aver condizionato la partita, perché questo va detto, e in epoca di VAR mi sembra incredibile. E insomma, il Milan non è che sia diventato una macchina perfetta, no, la differenza rispetto a un mese fa è che vince le partite della sofferenza, alla fine le porta a casa, e quindi questo per certi versi è ancora più indicativo e ancora più promettente, perché se dovesse fare un passo avanti sul piano del gioco potrebbe arrivare lontano, non so quanto. Beh, ma intanto sfrutta la scia, secondo me, è certo. Giusto quello che ha detto Romagnoli ieri sera dopo la partita. Ma il derby, quando è il derby? Tra due partite, adesso ne abbiamo un'altra, poi abbiamo... Esatto, poi il derby, poi la Juventus in Coppa Italia, insomma, giustamente guarda una per volta, e in questo momento è l'unico modo, secondo me, vista la classifica, la situazione, la stagione, eccetera, l'unico modo per vivere. Allora, state con noi, 800240024, numero verde, WhatsApp, vocali 349-238-6666, dopo la borsa parliamo di prepensionamenti e di mercato. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Noi di Replica Sistemi diamo valore alle esperienze maturate nella gestione della logistica di produzione e distribuzione. Insieme ai nostri clienti progettiamo sistemi innovativi e li replichiamo a ogni installazione successiva. Oggi Replica Sistemi fa parte di Zucchetti Group. Con la più grande software house italiana in Europa, la nostra piattaforma Smile è destinata a diventare ancora più potente. Replica Sistemi. Replica successi. Zero emissioni. All'inizio era una promessa. Poi è stato un impegno. Oggi è una scelta. Gamma Volvo ibrida plug-in. Ibrida, sempre. Elettrica, quando vuoi. Per viaggiare in modalità pure a zero emissioni. Scopri la tecnologia ibrida di Volvo in tutti gli showroom. Dal 2 al 5 febbraio, appuntamento a Riva del Garda con la più completa fiera italiana dedicata all'ospitalità e alla ristorazione. Hospitality, il salone dell'accoglienza, apre le porte alle eccellenze e alle tendenze del settore Horeca. Oltre 100 appuntamenti formativi dedicati all'hotellerie, alla mixology e alla birra artigianale. Acquista il tuo biglietto online e seguici su @hospitalityriva. Niente un optional, perché tutto è di serie. Mini Countryman nuova Baker Street Edition 102 cavalli, tua a 23.400 euro con ecobonus mini ove applicabile e 5.170 euro di vantaggi inclusi. Scoprila in tutte le concessionarie mini e su mini.it. Tutti convocati. Guardiamo come arriviamo a marzo-aprile, il ruolo che ho nella squadra e il rapporto che ho con tutti è un qualcosa che mi gratifica tanto, e penso che abbiamo creato il gruppo portieri molto forte, molto solido e molto unito, e anche questo aiuta. Aspettiamo un attimino e guardiamo. Se non c'è il crollo che tutti ormai sperano ci sia da 10 anni, magari andremo avanti, se no non ci sarà problema e ci fermeremo. Questo Gigi Buffon, ieri ha compiuto 42 anni per la serie Barcollo ma non mollo, aspetta un attimo poi decido cosa fare l'anno prossimo. Intanto, sempre per quella serie lì, Nadal perde contro Thiem in Australia e esce dal campo infuriato con gli arbitri in perfetto stile Serie A, e poi argomento prepensionamento dei campioni. Buffon che vabbè di andare in pensione ancora non c'ha voglia. È successo per Del Piero, è successo per Totti, per De Rossi, per lo stesso Raikkonen, adesso Pierluigi succede a Valentino Rossi, perché la Yamaha oggi ha annunciato che nel 2021, sorry, ma i piloti saranno Vinales, che ieri ha rinnovato, e Quartararo, che è il ragazzino che ora corre nel Team B per Valentino. Vabbè, è stato bello, arrivederci, grazie, decidi tu cosa fare, magari una moto, appunto uno scambio di moto con Quartararo nella squadra B della Yamaha. È la vita, ragazzi, è la vita. Ma io credo che ci sia, diciamo qualche giorno fa, nella scelta di Valentino, di Gigi, di tutti quelli che vanno avanti finché ne hanno voglia, ci sia un margine di rischio, ma questo è molto bello, molto onesto, e secondo me è un senso di vera libertà. Io sentivo le parole di Gigi di qualche istante fa, e sono parole, secondo me, di grande buon senso, di uno che semplicemente se ne frega un po' del giudizio, cioè sa benissimo che continuare inevitabilmente implica un margine di rischio. Lo stesso vale per Valentino, anche Valentino sicuramente, se avesse voluto seguire le teorie del marketing perfetto, probabilmente qualche anno fa avrebbe detto addio, non perché non sia più competitivo, ma perché quel Valentino lì, per motivi anagrafici, probabilmente non lo rivedremo più, il Valentino lì di qualche anno fa, così come anche se qualche grande prestazione la fa comunque, è chiaro che Gigi di qualche anno fa è una cosa diversa, ma questa è la vita, no? però alla fine decide l'uomo, la motivazione, la voglia di giocare, la voglia di esserci. Quindi io credo che sia un effetto collaterale di una scelta di assoluta libertà che mi rende francamente questi giocatori. No, il rischio è quello di graffiare, di fare qualche graffio sulla copertina della leggenda, del mito, di quello che hai costruito. È un rischio calcolato, perché se poi uno c'ha voglia invece di continuare a mettersi in discussione, di giocare a pallone in un caso, di andare in modo o nell'altro, è giusto che se lo viva. Poi stiamo parlando di tutti e due i casi di vicende sportive ancora di grande livello, perché non c'è dubbio. È giusto, cioè vediamo cosa succede adesso. Per adesso ho voglia ancora, poi sono qui. Credo che per Valentino valga la stessa cosa. Sono curioso di sapere come la pensa Roberto Ungaro. Ciao Roby. Ciao Carlo, ben ritrovati a tutti. Allora, io sono d'accordo con Pierluigi, cioè è naturale, è logico che Yamaha si assicuri il futuro e quindi dia la moto a quello che sta venendo fuori. Io non vedo nulla di... Allora, secondo me comunque è tutto studiato e c'è una strategia, nel senso che Yamaha tempo fa ha detto: decidi cosa vuoi fare, e lui non vuole decidere, lui ha dichiarato che sì, qualche gara la faccio e poi vedrò come finisce. Allora ha detto: sappi che comunque una moto per te in Petronas c'è, ci sarà sempre. E allora, con grande strategia, perché Quartararo ha firmato prima di Vinales, però l'hanno tenuto nascosto, giustamente, Yamaha ha firmato durante le vacanze di Natale, e hanno ufficializzato questa cosa, ma la moto nel team Petronas per Valentino c'è, ovviamente, ed è una moto quasi ufficiale, perché è una moto molto competitiva. Valentino, secondo me, era al corrente di tutto. Non è che Valentino trova la notizia e si sente dall'oggi al domani appiedato. È una strategia di Yamaha decisa di comune accordo, perché altrimenti Valentino ci mette un secondo a fare una conferenza e a ribaltare tutto. Cioè, il peso che ha lo sappiamo bene, no? E quindi è stato fatto comunque con strategia. Appena prima di Sepang, guarda caso, così sembra anche che deve un attimo mettere il sale sulla coda. E quindi per me ci sta, però io non vedo nessuno, non c'è nessuno scandalo, anzi, cioè, a febbraio saranno 41. Appunto, a febbraio saranno 41, ieri Buffon ne ha fatti 42, io vedo un certo parallelismo, se vogliamo, con la vicenda di Buffon. La Juventus dice: va bene, vai al Paris Saint Germain, fai un anno là, poi ti riprendiamo, vieni qui, però sia chiaro, tu fai il vice e il titolare è quell'altro. Poi se c'è la possibilità di arrotondare il record, lo facciamo. Scusa, se torno un secondo al calcio, hai sentito le parole di Buffon, che c'è quel focus sul settore portieri, cioè lui in realtà è chiaro che quando gioca è più contento di quando sta in panchina, questo non c'è dubbio, credo sia faccia parte della natura umana, figuriamoci per degli agonisti come gli sportivi. Però il suo lavoro e il suo focus è sicuramente diverso rispetto al passato, è quello di contribuire alla crescita, probabilmente già quasi un ruolo da dirigente. Quindi dirigente giocatore, sì. Sì, ma... comunque insomma di persona che sta cominciando a vedere come va, come funziona, un eventuale futuro, si sta guardando attorno. Però ripeto, finché il livello è un livello, e vale sia per Valentino che per Gigi, è un livello ancora competitivo, più che dignitoso, se c'è la voglia, perché sì, no? Cioè... Sì, no, ma sono d'accordo, compatibilmente con i rischi che si corrono, ma questo discorso certo. Vale anche per Valentino Rossi. Tra l'altro domani verrà presentato, c'è la presentazione ufficiale del suo team VR46, la seguiremo peraltro, quindi tieniti pronto Roberto. Però anche lì Valentino quasi guarda un altro ruolo, quasi guarda al futuro, quasi fa il pilota dirigente. Lui sarà innanzitutto ambasciatore a vita per Yamaha quando magari smetterà, e poi si divertirà molto, perché si divertirà molto con le quattro ruote, e potrebbe fare anche un po' il manager nel mondo delle due, perché no? Ma ti ricordi, Carlo, che l'anno scorso dicemmo, se per caso dicesse dopo Valencia l'ultima gara che si ritira, quasi quasi non mi stupirei più, non farebbe notizia, cioè per come andavano le cose, ti ricordi? Quindi sì. Oggi non dobbiamo, poi è chiaro che era un po' un usare, però non c'è da stupirsi più di tanto. L'altra notizia, fammela dire, che è sempre più probabile che Jorge potrebbe diventare con la dottora Yamaha, capisci Carlo? Uh-huh. E perché Jorge la Yamaha la sapeva far andare molto bene, ti ricordi? Certo. Quando c'era lui, e quindi Yamaha ha tutto l'interesse di coinvolgerlo. Nelle sue vacanze è passato in Giappone, guarda caso potrebbe anche esserci stata una firma. Non dovrebbe esserci subito a Sepang nei test di settimana prossima, ma pare che Jorge, ci sono ottime probabilità che faccia un po' il collaboratore ufficiale per Yamaha. E quindi è già tutto, sì, insomma, pronto. Il denominatore comune di tutto questo è che staccarsi da quel mondo lì, che siano due ruote, che sia un pallone, eccetera, è difficile. Ma come si fa? Ma come si fa? Ma ragazzi, a me... Io rosico che mi salta la partita a padel, se non troviamo il quarto rosico, figura di gente che ha vissuto quell'esperienza lì. Poi, siccome comporta anche una certa fatica, ovviamente gli allenamenti, le pressioni, e siccome serve essere atleti eccezionali e uomini eccezionali, è chiaro che se capisci che la motivazione scende, puoi fare una scelta di tipo diverso. Però ripeto, non c'è un giusto e uno sbagliato. No, l'unica cosa mi sembra difficile da accettare, quando sei stato il numero uno, accettare di essere il numero 6 o 7 diventa complicato. Sei stato il numero uno, accettare di essere il numero 12 nel caso del portiere è qualcosa di dal mio punto di vista che è emotivamente complicato. Poi si vede che la passione è più alta, che non fa piacere, però se ti fa più dispiacere startene a casa, e allora sì. Quella, credo sia quella roba lì, no? Roberto, per salutarti e darti appuntamento domani. Casco al chiodo per un pilota vuol dire morire. Perché è quello. Nel calcio ti puoi comunque riciclare, cioè è diverso, ma nei motori, quando abbassi per l'ultima volta la visiera, il casco poi lo metti, appoggi al chiodo, è la tua morte, sei finito, ed è difficilissima riciclare. Hai ragione, Carlo. Grazie Roberto, sentiamo domani. Ciao Roberto Ungaro. Ciao. Adesso traffico e poi Luca Marchetti, mercato, proviamo a capire che succede. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina, Tutti Convocati Radio 24, su Facebook. Tutti Convocati. Tutti Convocati. Cosa ha vinto Eriksen per essere così lodato dalla stampa, dai giornalisti e da tutti voi, insomma? Alla fine ho guardato il curriculum di Eriksen e non ha vinto praticamente nulla. Grazie. E non avrà vinto praticamente nulla giocando per un simpatizzante dell'Arsenal, è proprio una battutaccia, cioè proprio un assist di qualcosa. No, vabbè, però non è così, dai, cioè non è così. Poi non è che il valore di un giocatore lo si misura nel numero di scudetti vinti, altrimenti no, il medico Furino sarebbe il miglior centrocampista della storia del calcio italiano. Lo puoi fare a fine carriera, no? questo tipo di giocatore, però è stato un buonissimo giocatore, però non si misura in numero di trofei vinti. No, anche perché se si misurasse in Champions, Ibrahimovic dove lo mettiamo? Per esempio. esempio. Luca Marchetti, buongiorno. Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno. Come va? Bene. Dai che è quasi finita. Dai che le 20 di venerdì arrivano. Mi dispiace un po' a tutti che finisce il calciomercato. E questa è come la sindrome di Buffon e Valentino Rossi, mica vedi? Nessuno molla niente, è giusto così, nessuno molla niente. È giusto. Che cosa ti aspetti di raccontare nelle ultime ore di mercato a Sky? Mi aspetto di raccontarti l'addio di Florenzi, anche se ormai si è già consumato, l'addio di Piontek che si sta per consumare all'Hertha Berlino, mi aspetto qualcosina dal Milan, visto che hanno venduto anche Suso, qualche operazione, mi aspetto un Mertens che è corteggiato dal Chelsea, che quindi può andare via, e che Giroud quindi a quel punto può essere liberato per andare al Tottenham, ma questo potrebbe essere un giro. Però attenzione, perché Giroud è una sorta di mina vagante in questo mercato, l'Inter l'aveva praticamente preso, poi ha deciso di non affondare il colpo, chi ha bisogno di un attaccante adesso lo può andare a prendere, forse anche lo stesso Napoli, magari lo butto lì, lo scambio alla pari fra due giocatori a scadenza contratto, sì, con caratteristiche completamente diverse. Leggevo un po' a sorpresa di Petagna, a sorpresa da parte mia, non mai avrei associato. Perché non ci segui? Mi dispiace, caro Carlo. No, ma io vi seguo con attenzione. No, cioè... proprio tecnicamente, dice. Rispetto per Dai, sì. Un investimento per il prossimo anno. Napoli ha speso diversi milioni di euro in questo mercato, soltanto in parte per giocatori che giocheranno nel Napoli più ad adesso. Che sono Demme, Lobotka e Politano. Poi c'è Rachmani, già preso Politano che sta chiudendo. Ha provato a fare un'offerta per Kumbulla per chiudere adesso. Lo stesso dica si per Amrabat. È un Napoli che sta costruendo adesso la squadra per il prossimo anno. Sì, cioè, questo mi sembra evidente. E anche con guardando quelli che sono già arrivati, che hanno già debuttato, mi sembra anche con discrete intuizioni. Però Pierluigi Giroud io l'avrei portato all'Inter, anche perché attaccante ideale magari anche in chiave Europa League, per diverse ragioni sarebbe stato un colpo funzionale. Beh sì, insomma, un buon giocatore, esperto, fisico, con un certo tipo di standing proprio internazionale. Però insomma, probabilmente, ecco, perché secondo te Luca non hanno affondato? Ma per me ci sono due o tre piccole motivazioni che poi sommate possono aver indotto l'Inter a lasciar perdere. Intanto l'Inter ha fatto tre acquisti, il quarto acquisto poi dopo avrebbero scelto loro chi dei quattro non avrebbe potuto giocare in Europa, perché si possono fare soltanto tre cambi della lista precedente. C'è Esposito, che se arriva Giroud o lo mandi via a giocare non gioca neanche un minuto. E Eriksen, che è un giocatore, io lo penso al contrario del nostro ascoltatore prima, talentuosissimo, in caso di estrema necessità può fare anche la seconda punta, puoi giocare anche 3-5-1-1. Quindi credo che tutta questa serie di motivi, più il fatto che comunque Giroud, è vero che è stato già allenato da Conte, comunque ha 32-33 anni, avrebbe percepito all'Inter non solo un lauto stipendio ma anche un contratto di 2 anni e mezzo. Era un'operazione che l'Inter aveva in animo di fare e l'ha iniziata a fare quando ha avuto paura, soprattutto nel periodo in cui Sanchez non era a disposizione, di essere troppo corta in avanti. Adesso secondo me, scoperto Esposito, avendo riflettuto anche su Esposito, perché poi ci sono state tante squadre che hanno richiesto questo ragazzo, avendo a disposizione Eriksen, sai, prima doveva arrivare Vidal, cioè una delle possibili alternative a centrocampo era Vidal, no? Sì. Che è un giocatore diverso rispetto a Eriksen. E quindi forse anche un pizzico di spesa in più per far arrivare Eriksen subito, piuttosto che naturalmente a zero, ma credo che l'Inter aveva previsto di spendere un po' meno dei 20 milioni che poi concretamente ha speso. Credo che tutto questo abbia fatto, sono tutti piccoli sassolini che hanno creato dubbio in casa Inter, che poi hanno fatto decidere su no. Sì. Quanto invece alla Roma, Pierluigi, vista la diaspora dei capitani, adesso trema Dzeko, perché... insomma, come c'è uno che ha la fascia al braccio, lo mettono sul mercato. Sì, vabbè, ma no, su Florenzi c'è un po' di dispiacere, secondo me, perché, dico, è un dispiacere più che altro così di ambiente, di umore, perché comunque un giocatore che ha dato tanto alla Roma in questi anni ha avuto un calo sicuramente di rendimento, secondo me dovuto anche alla sua estrema duttilità ed estrema generosità. Lui è stato, lo sapete, ha girato 1000 ruoli, meglio, ne ha girati almeno 3, sì, e certo. Quindi a un certo punto forse ha perso un po' la identità, la propria identità tecnica. E ci sta che voglia andare a giocare, quello che ho capito è un prestito secco, però comunque è un prestito secco per vedere che cosa succede, per cercare di trovare minuti in vista di un eventuale europeo. Non è andata benissimo, cioè non c'è stato grande feeling, lo sappiamo, con Fonseca, che l'ha a un certo punto comunque abbassato nelle gerarchie. Ripeto, è un po' un dispiacere, perché insomma invece la narrazione dei capitani della Roma negli ultimi anni è stata una narrazione bella. Sì, certo, ma poi romanisti, eccetera, cioè c'è quasi l'impressione. Se ne discute molto, per me è un valore. Ma anche secondo me, poi uno potrebbe domandarsi: ma fanno apposta a deromanizzare la Roma? Io credo che la storia di Florenzi sia diversa da quella di Totti, sì, che sia diversa da quella di De Rossi, eccetera, eccetera. In questo caso è molto più una questione tecnica. Lui con Fonseca non trovava spazio, giustamente vuole giocare, e credo sia quasi liberatorio in questo caso la cessione. Io, Carlo, credo che sia una questione tecnica, ma anche una questione ambientale. Perché Florenzi, non lo so, magari per Luigi, che vive più da vicino alla vicenda della Roma, lo sa meglio di noi che invece gravitiamo molto più su Milano, credo che la PIL di Florenzi con la piazza romana sia notevolmente inferiore rispetto a quello che hanno avuto Totti e De Rossi, anche a causa dei rapporti tra Totti e Florenzi, che non sono mai stati esplicitati, ma proprio perché non esplicitati ti lasciano sempre il dubbio. Dubbio, sì. Guarda, non lo so, sinceramente non lo so proprio, però non c'è alcun dubbio che ci sia una distanza rispetto a Totti e De Rossi in termini anche di percezione, e così come non c'è dubbio che negli ultimi anni ci sia stato un calo sia in campo che un calo, secondo me, nelle simpatie di una parte della tifoseria nei suoi confronti. Ripeto, a me dispiace perché comunque, secondo me, questa è stata una ricchezza della Roma in questi anni, quindi a vederlo da fuori, a vederlo da un punto di vista culturale, da un punto di vista, diciamo, quasi sociale, io ritengo che questi capitani siano stati veramente un marchio di fabbrica della Roma, questo richiamo alla romanità sia stato molto importante. Detto questo, poi è giusto trovare, poi questo è un prestito, ragazzi, quindi sì, è un prestito, certo, è un time out, in realtà può essere anche un'occasione magari per andare a respirare reciprocamente, no, ma poi peraltro poi Florenzi, guarda, a me piace molto quel giocatore, il fatto di vederlo sempre avvitato alla panchina, secondo me preferisco vederlo giocare anche con un'altra maglia. Per chiudere, Luca, in 8 secondi cosa cerca il Milan? Perché adesso è uscito Suso, è uscito, mi dicevi, Piontek, che andrà, Rodriguez doveva andare in Turchia, invece va a Napoli, e cosa cerca? Non va più, Rodriguez rimane al Milan. Rimane al Milan. Sì, la trattativa al momento è completamente ferma, se non saltata addirittura, quindi rimane Rodriguez, perché il Milan non vuole darlo al Napoli, perché obiettivamente lottano per la stessa posizione in classifica, per l'ultimo posto al sole in Europa. No, sono le due grandi che se la contendono con le sorprese di questo campionato, Parma, Cagliari, eccetera, sì, eccetera. Il Milan prenderà un centrocampista di destra di piede, quindi non a piede invertito come Suso. L'ultimo nome che abbiamo individuato è quello di un giocatore dell'Anderlecht, spero di pronunciarlo bene, si chiama Starbex, è un giovanissimo perché è un 99, il Milan si è concentrato su questa ricerca del talento, sì, poi i giocatori poi devono venire fuori, devi dargli anche l'opportunità di poterlo fare. Certo, il Milan in questo momento non è la migliore delle situazioni per allevare un talento. Detto questo, le ultime vittorie almeno hanno riportato sicuramente il sereno. Sì, poi c'è l'ombrellone Ibra che, insomma, esatto, sotto il quale tutti si possono riparare. Però credo che Piontek in linea di massima non venga, come dire, sostituito, anche perché c'è Rebic che può fare la prima punta, c'è Ibra, c'è Leao, mentre invece Suso, almeno nel numero, un giocatore giovane di talento, il Milan proverà a prenderlo. Grazie, Luca. A voi, ragazzi. Buon lavoro, tieni duro. Ore 20 di venerdì finisce il mercato. Con ce ne sentiamo domani invece per Luigi. Già finisce? Sì. Vuoi dirmi anche che mancano 4 mesi e 2 giorni a giugno? 4 mesi e 2 giorni a giugno, ma ne mancano meno addirittura al Festival di Sanremo, che è un po' la prima ventata di primavera. A domani, a febbraio, già in discesa. Ciao, poi a corto. Grazie, Claudia Schiattone, il nostro attore, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.